Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E così siamo arrivati anche alla fine del mese di agosto. Con oggi, 31 agosto, si chiude anche la settimana di Eclettica. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni con voi tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì di tutte le settimane. Fra le 19 e le 20. L'indirizzo di mail è giulio@radiorockfm.com e oltre al sito della radio vi ricordo anche il nostro spazio myspace.com/eclettica. Il mio nome è Joe Roberts, lavoro per lo Stato. Sono un sergente stanziato per Inville, palazzina numero 8. Ho sempre fatto un lavoro onesto, il più onesto possibile. Ho un fratello che si chiama Frankie, e Frankie non è un buon soggetto. Fin da quando eravamo bambini è stata sempre la stessa storia. Ricevo una chiamata alla radio. Frankie è nei guai in città. Se fosse stato chiunque altro, lo avrei rinchiuso subito. Ma quando si tratta di tuo fratello, a volte vedi le cose diversamente. Io e Frankie ridiamo e beviamo insieme. Nulla ti fa sentire meglio della vicinanza del tuo stesso sangue. Balliamo a turno con Maria, mentre la band suona Night of the Johnstown Flood. Lo riprendo quando sgarra, come farebbe ogni fratello. Un uomo che volta le spalle alla propria famiglia è un poco di buono. Frankie andò sotto le armi nel 1965. Io ottenni un rinvio per badare alla fattoria. Mi sistemai e presi in moglie Maria. Ma i prezzi del grano continuavano a scendere, finché era quasi come essere derubati. Frankie tornò a casa nel 1968 e io ho preso questo lavoro. Era una notte come tutte le altre. Mi arrivò una chiamata su per giù alle 9:15. C'era un guaio in una trattoria poco oltre il confine del Michigan. C'era un ragazzo conciato male, disteso sul pavimento, che perdeva molto sangue dalla testa. C'era una ragazza che piangeva ad un tavolo e dissero che era stato Frankie. Questo era l'incipit di Highway Patrolman di Bruce Springsteen. Stitch me up. merda! Ma che è successo? È successo che adesso tocca a te. Vai, in fondo era quello che volevi, no? Inizio tutto nordamericano, quello di Eclettica di quest'oggi, a partire dai Minor Story che ci siamo ascoltati con Stitch Me Up, estratto dal loro ultimo album, per passare poi dagli Stati Uniti al Canada, ai canadesi The Mosserine Republic, che usciranno per Arts and Crafts il 2 di ottobre con un album dal titolo Population. L'estratto che si è appena chiuso era Sherry and Her Butterfly Net. E si prosegue ancora con gli Stati Uniti e si prosegue con il soccer, con il calcio statunitense. Infatti la Lega del Calcio Statunitense ha preparato una compilation in occasione dell'inizio del campionato di calcio in cui ogni squadra ha il suo inno, a partire dagli LA Galaxy di David Beckham. Non c'è la moglie che canta, comunque. Per andare così a spulciare nella compilation trovo i Bad Brains che cantano le glorie dei DC United, oppure vediamo un po' i Bareneck Ladies che cantano le glorie del Toronto FC, poi scorro sempre la lista. Ah, ecco qua, gli OK Go che cantano le glorie dei Chicago Fire, The Rapture che cantano le glorie dei New York Red Bulls e per finire The Polyphonic Spree. Ce li ascoltiamo con Oops Yes, in onore del Dallas Football Club. Chevy del 69 con una testata tipo 396 e un cambio Hurst sul pianale. Aspetta stanotte giù al parcheggio, fuori dai magazzini 7-Eleven. Io e il mio amico Sonny l'abbiamo ricostruita dai rottami e lui gira con me da una città all'altra. Corriamo solo per i soldi, nessun altro legame. Li facciamo zittire e poi gli diamo una batosta. Stanotte il percorso è perfetto. Gli voglio far mangiare la polvere già nel primo giro. L'estate è arrivata ed è il momento giusto per andare a gareggiare in strada. Prendiamo al volo ogni occasione che ci capita e percorriamo tutta la parte nord dello stato. Quando termina il percorso, continuiamo in strada, dalle strade di fuoco alle interstatali. Alcuni uomini rinunciano semplicemente a vivere e iniziano a morire lentamente, un poco alla volta. Altri rientrano a casa dal lavoro e si danno una lavata e poi vanno a gareggiare in strada. Stanotte il percorso è perfetto. Voglio farli saltare tutti fuori dai loro sedili. Sfiderò tutto il mondo. Stiamo andando a gareggiare in strada. L'ho incontrata sul percorso 3 anni fa, in una Camaro con un damerino di LA. Mi sono lasciato alle spalle la Camaro e mi sono portato via quella ragazzina. Ma adesso ci sono rughe attorno agli occhi della mia piccola e la notte piange fino ad addormentarsi. Quando rientro a casa è tutto buio, lei mi sussurra: «È andato tutto bene, amore?» Se ne sta seduta sulla veranda della casa di suo padre, ma tutti i suoi bei sogni sono infranti. Se ne resta fuori, a fissare il vuoto, da sola, nella notte, con gli occhi di una che odia semplicemente per essere venuta al mondo. Per tutti gli estranei sconfitti e gli angeli della Hot Road che rombano attraverso questa terra promessa, stanotte la mia piccola ed io correremo fino al mare e laveremo dalle nostre mani questi peccati. Questa era Racing in the Street di Bruce Springsteen. Goes to row to the base and runs a little bit late when Sheila's work for the state. You see the clever girls look for the clever boys, and then the clever boys seem to have a different choice. They want a good looking chick that likes to blow them away. So when the laughs at all the fun and things they say, I have a friend who's in this men's club. He has no trouble to admit it. He wants a woman with ambitions that go as far as racing kids. You see, the clever girl looks for a clever boy to another extent. The clever boy will ever look for a mate who goes to road on the bait, so it's a little bit late and she just works for the state. You see, the clever girls look for the clever boys, and then the clever boys seem to have a different choice. They want a good looking chick that likes to blow them away. So when the laughs at all the funny little things they say, and the clever boy will ever look for a mate who goes to road till debates and runs a little bit late and she just won't for the state. You see, the clever girls look for the clever boys, and then the clever boys seem to have a different choice. They want a good looking chick that likes to blow them away. Someone who laughs at all the funny little things. And then the clever girl looks for a clever boy, so the clever looks like a clever boy. They'll ever look for a mate who goes to road till debates and runs a little bit late. Thank you. lì alla stazione pensai che i treni sono fatti apposta per gli addì. Partono piano, lenti, lenti. Tu hai tutto il tempo per pensare a chi sta partendo. E mentre la vedevo andare via mi vennero in mente due cose. La prima: ma se quel cartello con l'indicazione dell'agriturismo arcobaleno non fosse caduto, io sarei stato lì come un bischero a quell'ora alla stazione. E poi: ma io, secondo voi, quel treno l'ho perso veramente? Detto dei due brani che vi siete appena ascoltati, prima Pearl Carlberg con Clever Girls Like Clever Boys, Much More Than Clever Boys Like Clever Girls, e poi i Pigeon Detectives con Take Her Back, vi parlo invece con un po' più di dettaglio del pezzo che chiude questa prima parte di Eclettica. Vi ricordo che poi andremo avanti fino alle ore 20 qua sulle frequenze di Rock FM con Eclettica. È un esordio che arriva da Glasgow, però Emily McLaren, che sta dietro a questo progetto, è originaria dell'Ohio e è arrivata a Glasgow di recente. Qui ha formato un gruppo a cui ha dato nome Michael Dracula, che esordisce, per la precisione ha esordito proprio l'ultimo giorno di luglio per la Zee Records con un album dal titolo In the Red. Chiude questa prima parte di Eclettica, Please Don't Take This the Wrong Way. It's time to tell. stuck down to death.